Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, la nostra seconda puntata settimanale. Come sapete, Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali, dei periodici italiani e stranieri, va in onda sia il sabato sia la domenica, sempre alla stessa ora, cioè a partire dalle 8:30. Questa mattina volevo chiedervi se secondo voi c'è bisogno di una rotola sushi, cioè vi leggo la descrizione: un braccio robot chef di fabbricazione, vabbè, manco a dirlo, giapponese, che ha mano ferma, delicata, soprattutto una mano fredda, quindi non altera con la temperatura il cibo. È in grado questo robot, questo braccio robot, di afferrare e posizionare le fettine di pesce nel completo rispetto della cultura culinaria del Sol Levante. È una invenzione, voi direte, ma che ci serve? Non lo so, me lo chiedo anch'io, però è una delle invenzioni che vengono presentate in una divertente rubrica di Simone Tempia, che trovate su Wired di questo mese. Wired notoriamente pieno di contenuti anche molto importanti dal punto di vista proprio delle innovazioni tecnologiche. Poi vedremo se avremo tempo di segnalare anche un'altra cosa interessante che ho visto su questo mensile, tra le molte che potete trovare. Però appunto la rotola sushi è una di queste tecnologie nuove, vengono descritte così: sono strani prototipi che in apparenza servono a poco, ma che magari in futuro useranno tutti. Vi suggeriamo come farci pratica da subito per non farvi trovare impreparati. Ecco, questo appunto è uno dei 10 strumenti che vengono consigliati. Ve ne leggo qualcun altro: c'è una macchinetta scopri età, manco a dirlo, anch'essa giapponese, praticamente è un cicalino, così viene descritta, che simula il ronzio di una zanzara, che garantisce di capire la vera età di una persona. Emette 4 suoni, da quelli percepibili da tutti a quelli soltanto per i ventenni. Quindi il consiglio scherzoso di Simone Tempia su Wired è: usalo se hai dei dubbi sul tuo appuntamento al buio, vuoi capire effettivamente che età abbia la persona che hai davanti. Ci sono poi altre invenzioni, vi segnalo come ultima gli occhiali prismatici. Cosa sono? Sono occhiali che consentono, grazie a un gioco appunto di prismi, una visione a 90 gradi. A chi servono? Servono a chi vuole leggere stando in posizione supina, senza dannose torsioni cervicali. Ecco, questo potrebbe essere un utilizzo. Ripeto, sono dei prototipi, quindi cose che esistono effettivamente, poi non si sa quanto possano avere sviluppo commerciale e quindi essere reperibili prima o poi comunemente nei negozi. Ma molte delle invenzioni con cui oggi abbiamo quotidianamente a che fare sono poi anche cominciate così, da intuizioni che sembravano non di immediato impiego e che poi invece si sono rivelate essenziali per la vita quotidiana. Nello stesso numero di Wired, peraltro, si parla anche in una lunga e dettagliata inchiesta delle modalità di pagamento future. Qual è il senso? Come si spiega in questo articolo, in questa inchiesta, meglio intitolata Il futuro dei soldi, il web, l'utilizzo delle tecnologie, sta cambiando il nostro utilizzo del denaro, ci sta fornendo anche delle possibilità di pagare che sono diverse da quelle abituali, da quelle che conosciamo appunto con le operazioni bancarie, con le carte di credito. Il futuro dei soldi è l'articolo a cui, l'inchiesta a cui vi rimando, l'inchiesta, ripeto, molto dettagliata. Si segnala tra l'altro che ci sono già sperimentazioni molto interessanti condotte proprio in Italia. Ad esempio, un test con Telecom Italia permette già ad alcuni utenti di acquistare un biglietto per la metropolitana di Milano con il telefonino. E come si paga? Si paga avvicinando il cellulare all'obliteratrice. Peraltro a Modena c'è già un progetto che coinvolge 10.000 titolari di di carte contactless che praticamente non hanno bisogno di firma né di digitare un codice segreto, possono essere utilizzate per piccoli pagamenti, che sono già utilizzabili a Modena presso 200 esercenti della provincia. Poi ci sono altre carte contactless più generiche che possono permettere di comprare beni fino ai 25 euro, e ci sono sperimentazioni più locali. Una viene citata per il Credito Valtellinese, che ha dato a 50 dipendenti un cellulare Nokia con una particolare tecnologia chiamata NFC. Avvicinandolo a un point of sale, a una macchinetta contactless, può funzionare come una carta di credito, quindi effettuare l'acquisto di oggetti fino a 15 euro. Il Politecnico di Milano, infine l'Università Bicocca, prelevo sempre da Wired, hanno lanciato questa carta di Ateneo. La carta è un badge di riconoscimento, serve essenzialmente per consentire l'accesso degli studenti, che però si comporta anche come una carta prepagata ricaricabile, anche questa contactless, vuol dire appunto senza bisogno di contatto, per i piccoli importi, anche qui fino alla soglia dei 15 euro. Questo alcune delle segnalazioni che vengono date da Wired su questa inchiesta dedicata al futuro dei soldi, al futuro dei pagamenti modificati o in corso di modifica da parte della tecnologia. E allora, visto che parliamo di tecnologia, una tecnologia di cui si sta cominciando a parlare, di cui probabilmente leggeremo sempre di più, sentiremo parlare sempre di più, è questa dell'ebook, il libro digitale, connessa naturalmente al lancio di questo nuovo prodotto iPad, che ci servirà appunto per la consultazione di libri elettronici. Naturalmente sono tutte ulteriori frontiere dell'informazione che cambierebbero profondamente anche il programma che state ascoltando, che quindi non faremo più con l'utilizzo della carta, ma che potremo fare invece ricorrendo alle segnalazioni elettroniche. Un'inchiesta su L'Espresso, fatta da Antonella Fiori, sull'Espresso di questa settimana, dice: il libro elettronico è il futuro, ma deve diventare un oggetto del desiderio. Viaggio tra gli editori ai tempi di una rivoluzione che comincerà a Natale con migliaia di titoli in uscita, perché effettivamente, come si sa, il vero cambiamento di una tecnologia che supporta appunto i libri, come in questo caso, o altri oggetti, non deriva appunto non solo dalla sua facilità, dalla sua accessibilità, ma anche da che cosa ci si mette dentro. Ecco, che cosa ci possiamo mettere in questi ebook, come possiamo usarli, diventa determinante per la loro diffusione. Allora, vi segnalo che in questa inchiesta di Antonella Fiori, in cui appunto si preannuncia una forte avanzata dei titoli elettronici, dei libri in formato digitale per la fine di quest'anno, ci sono anche dei dati sul mercato di ebook, equivale per ora solo al 2% del totale in America, però per il 2015 ci sono delle previsioni che parlano del 20%. Si parla poi del Kindle, è uno di questi appunto strumenti che consentono la visione dei libri elettronici, 3 milioni di pezzi venduti nel mondo, in Italia si stimano 20.000 pezzi venduti, quindi sono numeri ancora ridotti, ma tutto lascia pensare, anche il fatto stesso dello spazio sempre maggiore che il libro digitale comincia a trovare sui settimanali, sui mensili che vediamo qui ogni sabato e ogni domenica, tutto lascia pensare che questa rivoluzione davvero, dopo diversi anni di tentativi, sia imminente. Tanto più che della stessa questione, o quasi, cioè dell'iPad, si occupa anche il Newsweek di questa settimana. Sul Newsweek di questa settimana si dice che l'iPad è destinato a travolgere tutta una serie di abitudini di consumo, e quindi anche per questo oggetto, che è in arrivo in America, negli Stati Uniti è già disponibile, potrà esserci un futuro di rapida diffusione. L'iPad, scrive Daniel Lyons su Newsweek, Newsweek cambierà il modo in cui usiamo il computer, in cui leggiamo libri, in cui guardiamo la televisione, e finché appunto non ci ricorderemo neanche più di come riuscivamo a fare prima di avere questo tipo di strumento. Non sappiamo quanto questa previsione poi sia destinata ad avverarsi, ma per quanto riguarda l'iPad almeno lo scopriremo molto presto. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di queste tecnologie utili o non sempre utili, come avete ascoltato nella prima parte della puntata. Beh, non so a voi, ma a me quando capita di confrontarmi con questi ulteriori cambiamenti tecnologici che potrebbero rivoluzionare pesantemente alcune abitudini fondamentali, ad esempio leggere le cose su carta, passare dal leggere le cose su carta a leggerle su uno schermo, per quanto comodo possa essere, beh, ecco, è una di quelle evoluzioni che un pochino spaventa. Allora è piacevole tornare un po' a un come eravamo. Ve lo propongo da il, ne abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, è il mensile del Sole 24 Ore, in edicola da venerdì con il Sole 24 Ore, dedica una sua rubrica tutti i mesi a invenzioni, giorni che ci hanno cambiato la vita. E proprio una innovazione tecnologica che ci ha decisamente cambiato la vita è stata quella della fotocopiatrice, e allora la rubrica Momenti di Gloria è dedicata proprio alla prima fotocopiatrice. Il debutto della prima fotocopiatrice è avvenuto il 19 settembre del 1959 e Francesca Vercesi su Will ci ricorda che questo strumento poi avrebbe rivoluzionato il lavoro d'ufficio. Vi leggo qualche dettaglio su questo giorno del debutto di questa che allora era una tecnologia appunto assolutamente impensabile, come altre di cui abbiamo parlato poco fa e che poi è diventata invece una compagna quotidiana. Ha fatto la sua prima comparsa, la fotocopiatrice, in una dimostrazione in un hotel, l'hotel Sherry Netherland di New York. La sua comparsa, la sua dimostrazione è stata trasmessa in televisione all'epoca davanti agli occhi ammirati del pubblico americano. Era il 19 settembre del 59, la prima fotocopiatrice automatica commerciale, economica, veloce, si presentava al mercato, un oggetto che ha rivoluzionato il modo di lavorare e la vita quotidiana. Si chiamava Xerox 914, il modello classico era potenzialmente in grado di realizzare 100.000 copie al mese, che fa una copia ogni 26,4 secondi. Adesso ci sembrerebbe probabilmente un'eternità o qualcosa di più, se dovessimo aspettare 26 secondi per vedere un solo foglio copiato. Faceva in questo modo circa 136 copie all'ora. Copiava però fogli solo di un certo formato, 22 e poco più centimetri per 35,6. È stata, racconta oggi Stephen Hoover, che è il vicepresidente di una delle società di Xerox, una autentica tecnologia democratica, perché fino all'esplosione di internet copiare le pagine è stato il modo più efficiente per distribuire le informazioni. Se il capo, spiega sempre Hoover, aveva bisogno di esaminare una nuova politica aziendale, i dipendenti copiavano i documenti, li mettevano nei raccoglitori, li facevano scivolare sotto le porte degli uffici. Le nostre ragazze, questa fu la dichiarazione nel 1959 del presidente della società, le nostre ragazze voleva dire le segretarie che lavoravano negli uffici amministrativi, le nostre ragazze amano già usare la 914. 914 era appunto la prima fotocopiatrice, di cui peraltro Francesca Vercesi riferisce anche un difetto non trascurabile, ma che poi finì per rivelarsi trascurabile visto il successo enorme di questo oggetto. Un difetto nella 914: la tendenza a prendere fuoco una volta surriscaldata. Tant'è che persino un politico americano, Ralph Nader, si lamentò che una di quelle presenti nel suo ufficio era riuscita a prendere fuoco 3 volte in 4 mesi, decisamente una media non trascurabile. La soluzione allora fu semplice, allora vuol dire nel 59, negli anni 60, il gruppo Xerox decise di fornire nella confezione, insieme alla fotocopiatrice, uno Scorch Eliminator, cioè un estintore. E allora, abbandoniamo la tecnologia, tecnologie vecchie, tecnologie nuove, parliamo invece di come stiamo nel presente. Perché? Perché su Donna Moderna c'è un'iniziativa questa settimana che mi è parsa interessante. È un sondaggio con un grande questionario, si intitola "Come stanno davvero le donne oggi? Rispondi anche tu", e l'invito della copertina di Donna Moderna. Di che si tratta? Si tratta di un sondaggio ospitato nella parte del dossier, sono le pagine centrali del settimanale. Donna Moderna, in collaborazione con Centromarca, l'istituto di ricerca GPF, chiede alle sue lettrici di partecipare a un questionario importante. Diamo la parola a voi, scrive il settimanale, per indagare tutti gli aspetti del mondo femminile, dalla famiglia alla salute al tempo libero. Il dossier e il sondaggio sono stati curati da Anna Scarabelli, con la collaborazione di Flora Casalinuovo. Quello che possiamo segnalarvi, naturalmente, sulle domande che poi trovate nel dossier, per le domande che poi trovate nel dossier che riguardano consumi, stili di vita, vita di coppia e quant'altro, per quello vi rimando proprio a Donna Moderna, che trovate in edicola. Però viene corredato tutto questo da una serie di dati che ho trovato molto interessanti proprio sullo stato delle cose tra uomini e donne sul lavoro e non solo. Ad esempio, precarietà e incertezza per il futuro, scrive la Donna Moderna, caratterizzano in questi ultimi anni il mondo del lavoro. La crisi colpisce allo stesso modo. L'Istat segnala come nel primo trimestre 2009 siano stati bruciati 204.000 posti, ma suddivisi in questo modo: 162.000 hanno riguardato gli uomini, 42.000 le donne. Quindi verrebbe da pensare che le donne siano state meno colpite dalla crisi. Non la legge proprio così Chiara Saraceno, esperta di sociologia della famiglia, dice: le donne vengono licenziate meno perché guadagnano meno e perché hanno contratti che costano poco, che costano meno. Spesso sono contratti precari con minori tutele, soprattutto dopo la maternità. Qualche altro dato sempre sull'occupazione femminile: secondo l'OCSE l'Italia ha il tasso di occupazione femminile che è tra i più bassi del mondo, siamo al 46%, e in media da noi lo stipendio di una donna è minore del 13,7% rispetto a quello dei colleghi. Non meglio va per quanto riguarda la presenza di donne dirigenti, donne manager. Le manager nelle aziende sono solo il 3%. Il dato è tanto più inspiegabile, lo riferisce appunto anche Donna Moderna, è un ultimo numero sul quale poi vi rimando al settimanale in edicola. Il dato, dicevo, della poca presenza di donne manager è tanto più inspiegabile sapendo che le ragazze mediamente si affacciano al mercato del lavoro più preparate dei maschi, perché le laureate sono il 23%, i laureati sono il 15%. Questo tra l'altro sembra poi influire anche sul matrimonio, che si è spostato in avanti. In media adesso ci si sposa intorno ai 30 anni, le donne si sposano intorno ai 30 anni, sono 4 anni in più rispetto a quanto accadeva alle madri delle signorine che vanno ora a matrimonio. E tanto per restare in tema di famiglia, c'è chi invece il matrimonio non lo contempla proprio, si tratta delle famiglie extra small, di cui parla invece l'Espresso, Sabina Minardi sull'Espresso. Uomini e donne single che però non rinunciano ad avere un figlio in Italia sono oltre 2 milioni, avanguardia di una scelta, scrive Minardi, sempre più serena e vissuta con orgoglio. L'atteggiamento poi di questi nuclei monogenitore o microfamiglie, come anche vengono chiamate, è descritto puntualmente nell'articolo di Sabina Minardi. Vi segnalo quanti possono essere appunto più in dettaglio questi nuclei monogenitori, che è la definizione che ne dà l'Istat, il nostro istituto di statistica. In Italia sono 2.170.000, fanno il 12,8% delle famiglie. Nella maggior parte dei casi hanno un solo figlio, qualche volta una famiglia su quattro sono addirittura due figli. Non ci sono particolari differenze tra nord e sud, c'è invece una fortissima differenza per lo più di genere, perché per lo più si tratta di donne con figli, 83,8% dei casi, che sono separate separate o divorziate nel 39,6% dei casi. Questa la fotografia statistica, per così dire, che viene presentata di queste famiglie molto poco tradizionali, o come siamo abituati a pensare tradizionalmente la famiglia, dall'Espresso nel suo Famiglie Extra Small di questa settimana. E restando sull'Espresso, invece, un altro articolo firmato da Roberta Carlini si occupa invece di scuola, quindi torniamo a un argomento noto. Cosa ha fatto Roberta Carlini? È andata a vedere perché la Finlandia vince sempre nelle classifiche di preparazione dei suoi studenti. Effettivamente è proprio così, perché le pagelle europee collocano la Finlandia sempre in testa in lettura, in matematica, in scienze. L'Italia sta decisamente più sotto, è preceduta dalla Svezia, dalla Germania, dalla Francia, si piazza un pochino meglio della Spagna. Ma perché tutto questo succede? Lo spiega Roberta Carlini. Succede perché c'è stato un forte investimento da parte del paese, della Finlandia, sulla preparazione degli insegnanti. Da 40 anni in Finlandia bisogna prendere un master, scriveva Carlini, per poter insegnare dalle elementari in su. Sono corsi che durano 3 anni a numero chiuso, con ammissione molto ambita. Una volta finito il master, poi c'è una selezione ulteriore, e i test dell'OCSE, che vengono fatti appunto per misurare la preparazione, poi dimostrano che questo investimento ha pagato. Anche le retribuzioni, a onor del vero, sono decisamente più elevate. E con questa segnalazione sull'investimento in formazione fatto dai finlandesi, decisamente superiore a quanto fatto da noi, ma anche in molti altri stati europei, si conclude la nostra puntata di Magazine 24 di oggi. Io vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare questa puntata, così come tutti gli altri programmi di Radio 24. Ringrazio Paolo Corleoni in regia anche questa mattina, ringrazio naturalmente anche Margherita Aina e Vittoria Mussini, che mi hanno aiutato come sempre a preparare questo programma. Grazie e buona domenica.